Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di un uomo che non è solo un boss del crimine internazionale, è una vera e propria star. È il capo del cartello della droga più potente del mondo, è il protagonista della lotta contro le forze governative per il controllo delle vie del traffico di cocaina verso gli Stati Uniti, è uno responsabile di migliaia di omicidi. Il suo nome all'anagrafe Joachim Guzman lo era Archivaldo, però in realtà tutti lo conoscono come El Chapo. E partiamo dal fondo, cioè dal gennaio 2016. L'8 gennaio il presidente messicano Enrique Peña Nieto ha annunciato su Twitter l'arresto di El Chapo, capo del cartello del narcotraffico di Sinaloa. Missione compiuta, lo abbiamo preso. Sono felice di informare i messicani che Joaquín Guzmán Loera è stato arrestato. Ormai era una questione di dignità e di onore da parte delle istituzioni messicane dopo che erano trascorsi 7 mesi dalla sua fuga da una prigione di massima sicurezza. Una fuga che aveva messo in ridicolo e in imbarazzo le forze di sicurezza del paese di fronte a tutta la comunità internazionale. E come sono riusciti a catturarlo? Beh, come accade a volte, l'uomo è un narciso e Joaquin è stato tradito proprio dalla sua grande vanità, perché era impegnato nella realizzazione di un film autobiografico e quindi ha commesso dei passi falsi. Lo ha rivelato il procuratore generale messicano Arely Gomez nel corso di una conferenza stampa all'aeroporto di Città del Messico. Ha detto che il Chapo aveva già preso contatto con attrici e produttori e praticamente il suo senso di impunità stava diventando arroganza e follia, sì, perché la vita del boss del cartello di Sinaloa a un certo punto comincia a intrecciarsi addirittura con lo Star System. E così il suo narcisismo potrebbe farlo sbarcare sì negli Stati Uniti, ma non per andare a Hollywood come sperava, per sbarcare in un super carcere di massima sicurezza, di sicurezza totale, visto che il Messico vuole accontentare la richiesta di estradizione degli Stati Uniti. Eh sì, perché il 50% della droga che arriva negli Stati Uniti arriva dal cartello del Chapo, il cartello di Sinaloa, che tra l'altro è tra i più sanguinari tra quelli che combattono la guerra della droga in Messico. Il regno di Guzman si era esteso negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Europa. La sua organizzazione è stata la prima con una struttura criminale imprenditoriale, la prima a gestire direttamente la raccolta, il traffico, la distribuzione di cocaina, metanfetamina, marijuana, quella che dal sud e dal centro America sbarca nei mercati di tutto il mondo. Guzman ha un patrimonio stimato attorno al miliardo di dollari e ha ammesso di aver ucciso 2 o 3 mila persone. Insomma, una vita terribile, sanguinaria, 2 fughe spettacolari da carceri di massima sicurezza di cui vi parlerò dopo. Ma come hanno fatto finalmente a arrestare il più ricco e potente narcotrafficante del mondo? Tranquillo, ciao. Tranquillo. Tranquila, mucha pregunta. Te voy a apretar el espacio. Espacio, un pay. ¡Ey! ¡Necesito otro más! ¡Necesito otro más acá! ¡Un pay! Questo è l'audio del raid. Tutto è successo all'alba di venerdì 8 gennaio grazie a una missione degli uomini della Marina Militare Messicana a Los Mochis, una cittadina sotto il controllo della sua organizzazione criminale. Nello scontro a fuoco contro gli uomini del boss, 5 dei quali sono morti nella sparatoria, è rimasto ferito anche un militare. Sono stati sequestrati 4 veicoli, dei quali 2 blindati, diverse armi, un lanciarazzi e una ingente quantità di dollari in contanti. La sua cattura è stata una breaking news per la CNN. A dramatic capture. The world's most wanted, most dangerous drug lord, Joaquin El Chapo Guzman, back in Mexican custody tonight. Mexico's president announcing mission accomplished after a nearly 6-month manhunt for the Sinaloa cartel chief. Nell'ottobre 2015 El Chapo è stato avvistato da un elicottero a Pueblo Nuevo, nel nord del Messico. Non è stato abbattuto perché era accompagnato da due donne e una bambina. È sfuggito all'arresto riuscendo a scappare attraverso una valle stretta e le azioni di intelligence sono state allora intensificate. Hanno pedinato i membri della cerchia più stretta di El Chapo e così è stato possibile individuare una persona specializzata nello scavare tunnel e risalire così alla casa di Los Mochis nell'area di Sinaloa messa sotto sorveglianza. Insomma, un percorso molto complesso a ritroso attraverso tutti i suoi trucchi e tutti i suoi i benefit che si era costruito da solo. Dal 6 gennaio alcuni movimenti insoliti avevano messo in allerta la sicurezza fino all'arrivo di un veicolo sospetto prima dell'alba del giorno dopo, del 7. Avevano la certezza a quel punto che a bordo ci fosse Guzman, così è scattata l'operazione per la cattura e è sfociata poi nello scontro a fuoco. E tra gli arrestati lui non compare subito perché lui assieme a alcuni complici riesce a aprire un tombino e a fuggire, ma gli agenti lo bloccano. Così finisce, prima ancora di cominciare, il film sulla sua vita, quello che tanto desiderava fare. Dal momento della sua cattura nel 2014 era subissato da centinaia di richieste da parte di case cinematografiche americane. Così dopo la fuga ha deciso di contattare autori, produttori per realizzarlo questo progetto. Durante la latitanza aveva pensato proprio a quello e l'attore Sean Penn lo ha incontrato assieme all'attrice messicana Kate del Castillo in una zona rurale nel centro del Messico. Era un ranch isolato ed era il 2 ottobre 2015. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Bueno, de la edad de 15 años en adelante, Questo è un breve stralcio dell'intervista video pubblicata dalla rivista Rolling Stone. Si tratta del primo incontro dell'attore con il boss. Dovevano seguirne altri. E come abbiamo sentito, il boss messicano racconta di essersi avvicinato al mercato della droga a 15 anni. Poi parla dei continui traffici gestiti anche nel periodo in cui era in carcere, perché dal carcere i boss non smettono di fare i boss. Questo neanche in Italia. Spiega inoltre di avere mandato per 3 mesi degli ingegneri in Germania perché imparassero come evitare problemi scavando il lungo e profondo tunnel attraverso cui lui è evaso da una prigione di massima sicurezza. Insomma, era uno a cui piaceva fare le cose bene. Lui si vanta anche di essere il più grande fornitore di droga del mondo, di avere una flotta di sottomarini, di aerei, di camion e di navi. Nell'introduzione al reportage, Sean Penn scrive così: sono convinto che la DEA, l'agenzia antidroga americana e le autorità messicane seguissero ogni mio movimento in Messico. Nel momento in cui sono atterrato, sono diventato sospettoso di tutto. Durante la preparazione dell'intervista ero costretto a usare telefonini una sola volta e poi bruciarli, indirizzi email anonimi e messaggi criptati. Tutti questi accorgimenti non sono bastati perché le mosse di Sean Penn e di Kate Castillo hanno permesso agli agenti di individuare la zona dove si trovava. Ma chi è Kate Castillo? È la star della telenovela La Reina del Sur. Voy a cantar un corrido. Ed è una telenovela particolare, di quelle sconsigliabili per i bambini. Si parla di sesso, di droga, insomma. D'altra parte la protagonista è una legata a doppio filo col cartello della droga. Il falco e il gabbiano. Il nostro viaggio all'interno della vita folle, narcisistica e soprattutto super delinquenziale di El Chapo si ferma davanti a una bella donna, perché noi comunque davanti alle belle donne ci fermiamo. È messicana, ha 43 anni, 2 matrimoni falliti alle spalle, è la produttrice di una marca di tequila, è attrice di una telenovela famosissima in Messico e negli Stati Uniti, tratta da un romanzo di Arturo Perez Reverte, che ha come protagonista una regina del narcotraffico, Teresa Mendoza. Brenda, mataron al güero. Me tuve que escapar de mi casa. Le tienes que decir todo esto al chino, ¿me entiendes? Tenemos que escapar. Nos van a estar buscando. Dile al chino y ya voy para allá. Llámame urgente. La Reina del Sur è una telenovela che parla di narcotraffico, parla di soldi, di sesso, di violenza. La telenovela più costosa mai prodotta da Telemundo, la rete ispanica degli Stati Uniti, quella seguitissima da milioni di telespettatori. Insomma, è tutta una grande occasione che rende Kate del Castillo una grande star. Interpretare a Teresa Mendoza es uno de los retos más grandes en mi carrera. Su audacia, su inteligencia, su coraje y sobre todo esos pantalones bien puestos la han hecho la mujer más poderosa que existe. Por eso estoy tan honrada de interpretar por primera vez a Teresa Mendoza, la Reina del Sur. E così, tra la bella Kate, amante dei tatuaggi, prorompente, amante delle auto da corsa, e il Chapo, che le belle donne le ama e se le può anche permettere, inizia nel 2012 questo viaggio, questo amore nella vita reale, questa volta non nella soap opera. E quando lei pubblica un tweet nel quale chiede al boss di dedicarsi non più al narcotraffico ma al bene, all'amore per gli altri, sboccia anche l'amore tra loro due. Perché lui è colpito dalla temerarietà di questa attrice che ha 2,5 milioni di follower su Twitter, e quindi lui, che è in carcere, chiede ai suoi avvocati di cercarla, di trovare un modo per stabilire un contatto. Così uno che ha ammazzato 2,000-3,000 persone tira fuori la parte romantica di sé, iniziano a scambiarsi messaggi in codice. In uno di questi, e il Chapo le scrive così: sei la cosa più bella del mondo, ti proteggerò più dei miei occhi. Quindi un uomo romantico, almeno in quella fase, a dispetto di tutto quello che stava combinando. A 61 anni lui non fuma e non si droga, fa drogare gli altri. A prima vista sembra un uomo semplice, un piccoletto, invece è uno degli uomini più temuti, potenti e sanguinari del mondo. Non è ancora chiaro dalle indagini quanto le intercettazioni dei movimenti di Kate e dei suoi messaggi abbiano aiutato gli investigatori a incastrarlo, però sembra che i servizi segreti abbiano intercettato un messaggio di risposta di Kate dopo che si erano incontrati insieme a Sean Penn nell'ottobre 2015. Lei scriveva così: sai chi sono, non come attrice ma come donna. Porterò la mia tequila per dividerla con te. È un sogno che devo realizzare. E se una donna così ti dice delle cose così, tu rischi di fare qualche errore. E così il capo dei narcos ormai si innamora della bella Kate e fa il suo grande passo falso, perché nonostante l'accerchiamento dell'esercito lascia il suo rifugio e si trasferisce a Los Mochis, dove avrebbe dovuto incontrarla ancora e dove poi invece trova le manette. In questa storia, in cui si intrecciano tutti gli elementi di un romanzo, ci sono delle trame che si intrecciano, aspetti che ritornano, ve l'avevo già detto prima. E il Chapo viene arrestato dopo la sua seconda latitanza, avvenuta dopo una fuga rocambolesca avvenuta nel 2015. Ma anche quando viene arrestato è stato sempre per colpa di una donna, anzi due, le sue piccole gemelle, figlie della quarta moglie, l'ex reginetta di bellezza Emma Coronel, sposata nel 2007 appena lei aveva compiuto 18 anni. Insomma, si trattava benino sto il Chapo. Era scappato 13 anni prima, nel 2001, da un altro carcere di massima sicurezza dove scontava una pena a 20 anni e voleva incontrare le sue figlie. Così lascia il covo sulle montagne della Sierra Madre e cade nella trappola delle forze armate. Pensate, prima di sposare Emma Coronel, il Chapo aveva sposato un'altra donna bellissima e si chiamava Zulema Hernandez, e viene uccisa dai sicari de Los Zetas, che è il cartello nemico di Sinaloa, e viene asfissiata con una busta di plastica nel bagagliaio di un'auto. E sono cose che fanno arrabbiare, poi se sei il Chapo ti arrabbi ancora di più. In qualche modo il copione si rincorre, la sua seconda fuga sembra veramente una fuga da film. Vi ricordate la grande fuga da Alcatraz? Insomma, la storia degli unici tre uomini che siano mai riusciti a fuggire dall'infame prigione di massima sicurezza di Alcatraz, quello che ha ospitato gente come Al Capone, e di loro non si seppe più nulla però. Sono salito di sopra stanotte, il condotto di ventilazione sale fino al tetto. Ma non ci arrivo, mi serve un appoggio. E voi come andate? Il mio pupazzo è pronto. Il buco l'ho fatto, ma il pupazzo lo comincio adesso. Io sono un po' indietro. Puoi prendere quegli impermeabili dal magazzino. È meglio cominciare a portarli sopra. Sì, ogni giorno me ne infilo uno e poi esco. C'è sempre una guardia diversa alla porta di pomeriggio. Penserà che l'avevo dal mattino. Puoi rimediare quel mastice? Tengo io l'inventario. Però mentre di questi tre fuggitivi non si sa proprio nulla, di El Chapo sappiamo quasi tutto. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di uno dei più pericolosi criminali di sempre. Un mio coetaneo, nasce nel 57 in una famiglia di contadini analfabeti, però mentre io andavo in giro a suonare lui trovava impieghi presso i boss della droga locale, però aveva uno spirito imprenditoriale e quindi piano piano scala tutti i gradini dell'organigramma mafioso e diventa un boss. Si chiama El Chapo, fugge due volte dalle carceri di massima sicurezza. L'ultima volta lui era nella zona delle docce della prigione, che si trova su un altopiano poco distante da Città del Messico, però al momento del controllo serale non era già più nella sua cella. Le guardie la trovano vuota dopo aver passato il carcere al setaccio. Gli agenti trovano nella zona del bagno un buco di 50x50 cm. Questo buco porta a un tunnel 1,5 metri sotto al pavimento, l'ennesimo scacco alla polizia messicana. Buenos días. Se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien estaba ubicado en el área de tratamientos especiales, pasillo número 2, estancia número 20. Questo tunnel arriva a un condotto verticale di 10 metri di profondità che viene raggiunto con una scala che porta a sua volta in un altro passaggio, e qui c'è un altro tunnel lungo 1500 metri, e questo ha un sistema di ventilazione a luce ed è soprattutto dotato di una motocicletta riadattata per percorrere dei binari, e questa motocicletta viene usata per portare via i detriti dai suoi complici e poi per scappare lui quando è il momento. E nel tunnel vengono anche trovate bombole d'ossigeno, praticamente un vero e proprio cantiere. Il capo dei servizi segreti viene licenziato, più di 40 guardie, più di 40 membri del personale del carcere vengono interrogati. D'altra parte ricordiamo che il Chapo ha una ricchezza di $1 miliardo, quindi se qualcuno di questi poi ha vissuto di rendita per tutta la vita, mi sembra un'ipotesi piuttosto plausibile. Si parla addirittura di una messa in scena, cioè che lui in realtà è uscito dalla porta principale e poi questa evasione viene condita per renderla, come dire, più rocambolesca e per ridurre le colpe dei poliziotti interni. Peraltro lo scrittore e conoscitore del narcotraffico Don Winslow dice così, intervistato dall'Huffington Post: se dovessi scommettere, direi che quel tunnel è stato una copertura, un diversivo. Ci sono voluti mesi e mesi per scavare quel tunnel e tutti ne conoscevano l'esistenza. C'era la polizia federale, quella nazionale e l'esercito lì attorno. Era lungo 1 miglio, aveva rotaie, un sistema di aria condizionata, magari anche il collegamento con la TV. Chi può saperlo? In effetti Winslow conosce bene El Chapo e fa anche un altro ragionamento, quello che stavo facendo io prima, che forse è più facile corrompere 40 guardie che star lì a costruire un tunnel così lungo, anche perché lui era già scappato nel 2001 da un altro carcere di massima sicurezza, quello di Puente Grande a Jalisco, e anche lì aveva corrotto tutti i guardiani che aveva attorno. Pensate che nel suo ultimo romanzo, che si chiama Il Cartello, Don Winslow racconta proprio di un boss che aveva convocato uno sceneggiatore per invitarlo a scrivere un film su di lui. Insomma, la fantasia e la realtà arrivano a confondersi. Nel covo del Chapo vengono trovati tutti i film in DVD in cui recitava Kate Castillo, ovviamente, e poi, siccome la fortuna capita sempre agli altri, si dice che sia stata trovata una copia di 000 di Roberto Saviano. Pensate che colpo se invece si fosse trovato un mio CD lì, ma non mi è andata bene. Però in realtà il problema è che il libro di Saviano dedica delle pagine ai narcotrafficanti, quindi anche al Chapo, e quindi che in qualche modo, secondo Saviano, c'è una regola per spiegare il mondo attuale anche attraverso la storia di come gira la cocaina. Raccontare la coca ti permette di raccontare il mondo. Ma che mondo è? È un mondo solo apparentemente distante. Quando alla televisione si guardano gli omicidi dei narcos, i corpi tagliati, o quando si incontrano in Messico, in Sud Italia, spesso si ha la sensazione che sia un mondo lontano. Io col mio libro volevo dire, è un mondo vicinissimo. I loro soldi sono nelle nostre banche, nei palazzi, nelle costruzioni, nel ciclo dei rifiuti. Le storie del narcotraffico spesso sono storie incredibili. Io non potevo inventarle perché la realtà supera qualsiasi fantasia. Però volevo anche dire al mio lettore, guarda che questa storia ti riguarda, non pensare mai che le storie del narcotraffico siano storie così lontane della selva o di contadini violenti. Sono storie che riguardano la vita tua, della tua famiglia, dei tuoi figli, delle tue scelte morali e personali. Il cartello di Sinaloa trasporta ogni anno negli Stati Uniti migliaia di tonnellate di marijuana, cocaina, eroina, metanfetamina attraverso una rete di complicatissimi tunnel sotterranei. Il suo potere si esercita su 60.000 chilometri quadrati di territorio messicano, su migliaia di persone. In molti si sono interessati alla vita di Guzman, il giornalista Malcolm Bates, statunitense che vive a Città del Messico, ha scritto la sua vita in un libro pubblicato in Italia dal Saggiatore, L'ultimo narco. Questo cronista ha affrontato per mesi le montagne, i villaggi messicani, si è mescolato con i campesini, con gli agenti, con i carcerati, sulle tracce di quello che per anni è stato un fantasma inafferrabile, e ne ha raccontato il percorso violento e crudele. Non dimentichiamo che quello che oggi è El Chapo era il figlio di un contadino analfabeta che poi è diventato capo di un impero del crimine in Messico, importante quasi come il Messico stesso quando si dice fare carriera. Sentiamo uno straccio del libro. Benché i narcos come lui siano considerati criminali dai governi del Messico e degli Stati Uniti, la popolazione del Sinaloa va per lo più fiera dei propri boss della droga e osserva un codice di riservatezza che viene spesso assimilato all'omertà di Cosa Nostra ed è ritenuto onorevole proteggere e rispettare i fuorilegge. Con le loro imprese, i trafficanti di droga della regione hanno persino assunto un'aura da Robin Hood. Con il dilagare della guerra della droga, però, c'è chi comincia a cambiare idea e la gente ricorda con nostalgia i tempi in cui era solo il Chapo a comandare. Al solo udire il nome del Chapo, la maggior parte degli abitanti torna con la memoria ad un tempo in cui il traffico di droga era ordinato. Certo, la violenza non mancava, ma era il Chapo a controllarla. Per farvi capire di cosa stiamo parlando, vi ricordo che il Chapo ha sempre avuto migliaia di persone alle sue dipendenze. La gente lo ha considerato davvero un nuovo Robin Hood, un po' come Escobar in Colombia, tanto che questo suo ultimo arresto è stato sofferto da molte persone a lui vicine, è stato visto proprio con atteggiamento luttuoso da quelli che ritenevano di essere i suoi beneficiari. E così ecco che in Colombia i boss ordinano di scrivere corrido per El Chapo, insomma canzoni celebrative in suo onore. I Los Canelios de Durango, per esempio, nel loro brano lo descrivono come El Señor de la Montaña e ne narrano le origini. Joaquín lo era, lo es y será. Di recente il cantante messicano Gonzalo Peña, detto El Pantera, molto famoso, ha dichiarato così: non applaudo a quello che fa Guzmán, ma ammiro la sua intelligenza. Ognuno ha il suo dono e il suo destino. In fondo il problema della droga non può fermarsi, perché il governo è il primo ad essere danneggiato. E così El Pantera ha deciso di comporre ben due brani, uno per lui, per Joaquín El Chapo Guzmán, e un altro per la sua ultima donna, l'attrice Kate del Castillo, donna da ammirare per il suo coraggio, definita gallina dalle uova d'oro. E intanto, mentre si pensano film, serie, TV su di lui, c'è una nuova moda in America e in Messico, perché l'azienda Barabbas è la produttrice delle due camicie indossate dal gangster nella ormai nota intervista con Sean Penn. Bene, le richieste sono tantissime, le camicie a $128 l'una stanno andando a ruba e si è aperta anche una guerra di successione, diciamo, tra tutti i figli del Chapo, che come immaginate sono tanti e arrivano da tutte le parti, per, come dire, ottenere i diritti d'immagine sul padre, perché lì in Messico intanto vanno come il pane le magliette di El Chapo, le foto in cui lui viene arrestato. Insomma, sta diventando il Che Guevara del Messico. E intanto sappiamo che il presidente del Messico, Enrique Peña Nieto, sta lavorando per accelerare le pratiche di estradizione negli Stati Uniti, perché solo a Brooklyn lo attenderebbero 21 capi d'accusa e alcuni dei quali peraltro prevedono quantomeno l'ergastolo. La procura messicana ipotizza intanto che l'attrice Kate del Castillo avrebbe ricevuto denaro da Joaquin El Chapo Guzman per la sua azienda di tequila, la Tequila Honor LLC, azienda di sua proprietà con sede in un noto paradiso fiscale degli Stati Uniti, il Delaware. La bella Kate sarà indagata per presunto riciclaggio di denaro. E intanto ecco cosa diceva sui social lei il 9 settembre del 2014, il giorno in cui ha dato vita alla sua attività imprenditoriale, insomma, che ha messo in pratica il suo sogno. Poverina. Feliz Día de la Revolución Mexicana. En este día tan, tan importante para todos los mexicanos, nace Tequila Honor del Castillo. Así que síganos en tequilahonor.com para que vean todos los detalles. Y no se les olvide, la preventa es 5,000 botellas y solamente 45 días. E mentre Kate dovrà vedersela con la giustizia, mentre El Chapo sta aspettando notizie sulla sua estradizione contro Sean Penn, per ora non c'è nessuna indagine. In effetti lui ha solo, come dire, aggirato un po' di procedure per intervistare il boss della droga. E il rimpianto di Sean Penn è solo quello che le polemiche abbiano oscurato quello che lui diceva fosse il suo vero scopo, cioè quello di contribuire al dibattito sulle politiche per la lotta alla droga. Questa è una vita terribile, di colpi d'ala votati al male. A volte raccontiamo anche queste vite, una vita piena di terribili avventure, di omicidi, di droga. È la vita di un leader del male, El Chapo. Ma noi torneremo invece a raccontare anche storie di chi ce l'ha fatta, di chi è risalito, di chi si è salvato. Nel frattempo, se volete mandare i vostri commenti e segnalare anche se preferite che noi si parli del bene o del male, fatelo, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a trovarmi nei miei social, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.